Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un affettuoso saluto a tutti voi da Gesi e da Antonio. Eccoci qua, Antonio. Pronti per la prossima per questa puntata. Certamente. Nella quale avremo un ospite virtuale. Bene, a te la parola. Allora, un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che accogliamo in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Ricordiamo il nostro indirizzo che è bluradioveneto.it e anche la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione. Un saluto cordiale naturalmente al nostro regista, al nostro coordinatore. Certo, come sempre. Bene, allora incominciamo subito. E prima di addentrarci nel programma ascoltiamo una canzone titolata Bella questa Italia, però parliamo degli anni 82, nell'anno 82, quando Gigliola Cinquetti ci descriveva l'Italia di allora. Bene, ascoltiamo. Eccoci di nuovo in studio e fra pochi secondi avremo in linea la nostra ospite di oggi, che è la giornalista Elena Pilato. Elena? Ci sono! Buonasera Elena! Ben trovata! È una gioia sempre sentire il calore e l'amabilità delle vostre voci. Ah, ma anche per noi è una gioia, sai, sentirti Elena, fatto, certo. Sì. Grazie. Come state? Tutto bene? Benissimo, dai. Non c'è male. Mi fa piacere. Tu anche, vero? Sì, discretamente. Ascolta Elena, che cosa ci racconti questa sera? Allora, questa sera vi porto e porto i nostri diletti radioascoltatori a passeggio. Dove? Nel Medioevo. Nel Medioevo? Mamma mia! Niente che meno. Facciamo un tuffo tuffo nel tempo, indietro nel tempo, in quelle atmosfere ricche di leggende, segreti, misteri, in linea con il mese di novembre per le atmosfere ricche di suggestioni, e vi porto, la destinazione è Collalto. Oh, con l'alto, con l'alto. Oh, con l'alto. Carica di storia. È densa, intrisa di vicende storiche, di cultura, di bellezze, ed è veramente stratificata di spessore culturale. Benissimo, allora noi ti diamo tutto il tempo che vuoi. Grazie, molto gentili come sempre, mi sento a casa. Bene. Nel vostro salotto. Allora, con l'alto ci conduce sempre nella nostra meravigliosa Marca, gioiosa e bella, però alta Marca, sinistra Piave, e nel dettaglio siamo nel comune di Susegana, precisamente a 6 chilometri verso nord rispetto al comune, che comprende questa amena e pittoresca frazione di Collalto, che per i nostri anziani e per il vernacolo, il nostro dialetto, si chiamerebbe Coealt. Togliamo quelle due L, sì. Però il nome autentico, geografico, certo, che indica la località è per l'appunto Collalto, che immagino i nostri ascoltatori, arguti come sempre, capiranno subito che cosa racchiuda il termine. Collalto è infatti situata su una sommità collinare, per cui è una sorta di, se noi la guardiamo da sud, dal comune di Susegana, notiamo questa roccaforte sulla quale spicca quello che è un po' il punto, il fulcro di tutta la nostra narrazione, un antico, i resti di un antico maniero dell'alto medioevo intorno al nono mille, per cui siamo negli anni in cui il medioevo proprio diventa la cornice storica degli eventi, per così dire, europei. E con l'alto sul piano paesaggistico, che dirvi, cari Gesuina e Antonio, è amena, fa pensare agli sfondi dei quadri di Giambattista Cima da Conegliano e anche del Giorgione, per cui c'è sempre quella linea collinare dolce, soave, bella, che però incontra anche dei passi, delle radure boschive ricche di castagni e anche di noci, per cui è un tipico quadro idilliaco della nostra campagna. E poi i castelli veneta, che sono, mi piacciono tanto i castelli. Il castello di Collalto è un castello che darà poi l'impronta e farà da culla, da grembo agli altri grandi protagonisti indiscussi della storia di oggi, certo, il Casato e la famiglia nobiliare, per l'appunto, dei Collalto, da cui poi deriveranno intrecci, storie, leggende, come vi dicevo, di cui poi, se voi, certo, sarete così pazienti e sì, gentili, vi narrerò. Siamo questo tutto... è un po', Collalto è un po', per raggiungerlo lo si può raggiungere sia imboccando la strada statale che da Ponte della Priula, per cui siamo dopo il Piave, come dicevo, sul versante sinistro, la statale che porta attraverso, da Ponte della Priula, attraverso l'abitato di Colfosco, poi la località di Sant'Anna, via verso la Valle del Soligo e la diramazione di Barbisano. Infatti, se noi osserviamo Collalto alle pendici, noteremo che verso nord si affaccia a guardare quella che è la piana del fiume Soligo. Verso sud, come vi dicevo all'inizio, ci sono i territori bagnati, i territori medi, bagnati dal corso medio del Piave. Ad est abbiamo il Selettano e ad ovest il bosco del Montello con Nervesa della Battaglia, Giavera, per cui è un po' in una crocevia di panorami meravigliosi, spettacolari. Proprio sul crepuscolo danno il loro meglio sul piano cromatico, ecco. Pensa che bella descrizione, Antonio. Questo è proprio, per così dire, sul piano paesaggistico come ci appare. Con l'alto, l'altro modo per raggiungere con l'alto, partendo dal comune di Susegana e dall'altro castello di cui vi accennerò, che è il castello di San Salvatore, dietro il castello si dirama una strada per molti tratti sterrata, intorno ai 5-6 chilometri, che ci porta sul colle della Tombola, dove si racconta si fermò Attila. Da lì vi troverete una diramazione con l'indicazione col Fosco o con l'Alto. Come notate, Gesuina ed Antonio, ritorna questo prefisso con l'Alto, esatto. Col Fosco, proprio a descrivervi, ad immergervi in questo territorio ricco sì di avvallamenti, ma anche il profilo principe proprio dato dalle nostre colline, ecco. Questo per arrivare a Collalto, e poi di lì ci tufferemo nel corso della storia di questa prestigiosa e famosa famiglia che prese, si insediò su questo colle e da cui poi prenderà il nome il Collalto. Allora Elena, prima di inoltrarti nella storia, ci ascoltiamo, sì, un'altra canzone. Ma certo, tu resti in ascolto della canzone intanto. Ma con piacere, molto volentieri. Ecco, poi torniamo da te. Ma certo. Benissimo, allora la seconda canzone in programma è Tutto un attimo, cantato da Anna Oxa. Sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino, è tutto un attimo. Io che firmo il nome come viene, dormo spesso accanto al finestrino, mi truffo il viso più deciso e vivo il tempo più vicino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi. Io che scambio amore fino in fondo, nei momenti miei con te, immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento te. Yeah. vita e questa qua che un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi. Eccoci di nuovo in studio con la nostra Elena. Elena? Grazie, grazie Gesuina, grazie. Allora, ti inoltri nella storia. Mi inoltro nella storia. Con l'alto, diciamo, lega in maniera inscindibile non solo il proprio nome, ma tutte le vicende che lo accompagneranno poi lungo la storia, questo paese così ameno, ha un casato nobiliare che ha più di 1000 anni e ancora oggi caratterizza quelle che sono le vicende culturali, gli eventi di non solo del Veneto, ma un po' di tutta Europa, perché stiamo parlando del casato nobiliare di Collalto. E anche qui un po' l'origine è avvolta da suggestioni, da leggende, ma di certo sappiamo che appartennero ad una stirpe longobarda, per cui partirono per così dire al seguito di quelle, un tempo si diceva orde barbariche, a me piace pensare invece quei nuovi popoli che arricchirono e contaminarono in senso positivo la romanità, e che poi ci porteranno in sé in fondo lo spirito, anche lasciatemelo dire, primigenio dell'Europa, per cui muovono dalla Germania, arrivano nella penisola italica e per contestualizzare andiamo molto indietro nel tempo, parliamo di Re Alboino e le prime testimonianze arrivano a portarci a Collalto i loro insediamenti 4 secoli più tardi. Siamo esattamente, me lo sono proprio annotato per essere corretta e non cadere in errori, nel 958 d.C. e il capostipite, colui che poi ricorrerà come nome in tutti gli eredi, è Rambaldo I di Collalto, che intreccerà la propria storia da, chiaramente partendo dai Longobardi, all'altro popolo che allora farà dell'Italia la culla dell'epoca feudale, dei vassalli, dei signori, i Franchi, per cui tutta la famiglia dei Carolingi, che arricchiranno e impreziosiranno, uniranno, sempre ahimè attraverso scontri ma poi anche paci suggellate, quella che è la propria tradizione culturale a quella dei Longobardi. Ed entrambi questa fusione, queste tradizioni toccano una somma, un apice proprio nel casato dei Collalto, casato prestigioso che sarà sempre fiero della propria indipendenza, perché seppur nati per così dire dall'incrocio di diversi popoli, manterranno sempre una compattezza di possedimenti e anche una fedeltà all'imperatore, perché Rambaldo I sposerà poi la figlia di re Berengario II, ne erediterà alcuni possedimenti e partirà da semplice, per così dire, proprietario della curazia di Lovadina a diventare conte della quella che oggi chiamiamo Marca Trevigiana, cioè di Treviso, sì. E via via, prima dell'anno 1000, ad estendere i possedimenti in un raggio che comprende l'odierna via Postumia e tocca arriva la valle bagnata dal Soligo, in cui poi subentreranno altri casati nobiliari. ma l'insediamento, che è quello di cui ci preme parlare oggi, a Cullalto avviene prima dell'anno 1000. Non c'è ancora il castello, ovviamente. Il castello di Cullalto arriverà più tardi. Arriverà con Enzedisio I, che lo farà erigere. Questi nomi che sono nomi veramente non fascino, straordinario, decisamente sì, difficili da pronunciare. Infatti ho dovuto fare una sorta di spelling, Enzedisio, calarmi nelle genti longobarde, certo. Ricordare Liutprando, Rotari, per cui andare molto in affascinante comunque. Sì, Antonio, molto affascinante, anche perché io credo che nel segreto di certe anche unioni di vocali ci siano le cellule del loro sapere, del loro esprimersi, esatto. Certo. Cui anche riuscire a trovare l'unione tra suoni all'apparenza per noi oggi difficili è segno di una volontà di crescere, di evolvere di quei popoli, che va assolutamente riconosciuta loro. Ritornando al nostro castello, che prende vita, il castello di Cullalto, nel 1110, perché risale proprio a quegli anni l'acquisto dall'allora podestà, diremo così, di Treviso, cioè dalle istituzioni pubbliche, da parte di Enzedesio, della effettivamente, secondo proprio documentazione, di quello che diventerà il fondo su cui verrà eretto questo castello, che diviene subito, si impone per la caratteristica di austerità, severità, come deve essere, sì, nei castelli di solito, medievale, sì. Ma anche con questo palazzo nobiliare attaccato a questa torre che spicca, snella, difensiva, ma anche per vedere, scorgere il più lontano possibile l'arrivo di eserciti, di truppe nemiche. E poi accanto, subito dopo, nel senso, stiamo parlando, quando dico subito, nel giro di un altro secolo, arriverà anche la prima cappella, chiesa di famiglia, dedicata a San Giorgio. Un castello di cui oggi, Gesuina e Antonio carissimi, sfortunatamente rimangono come vestigia la torre, che però già ci fa capire, la torre è un elemento estremamente identitario di un castello, per cui è un elemento ricco che ci fa viaggiare, ci fa immaginare. La prima cinta muraria che circonda il castello è ancora intatta, invece ahimè la cinta che circonda il contado, a noi, a causa dei vari conflitti, sono arrivate i resti, i ruderi, però, come diceva Antonio, sono ruderi densi di storia. Ogni sasso racconta, ogni sasso colma un po' laddove c'è un lacerto che manca di intonaco, sì. Arriva quel sasso a farci quasi, se noi potessimo avvicinarci e parlare con lui. Esattamente, Gesuina, riusciamo a percepire i suoni, delle damigelle che danzano, sì. I bambini che giocano a pallacorda, poi negli anni quelli dell'inizio 1200-1300, per cui la bellezza di Cullalto è in ogni centimetro c'è la storia che ti parla, c'è un c'era e una volta, per cui è anche il castello, secondo me, seppur alcuni si soffermano sull'aspetto del diroccato, in realtà è intatto nel suo messaggio, nella sua parte evocativa, Gesuina. Ecco, questa è la parola, evocazione proprio. Evocazione, sì, Antonio, proprio, sì. così. Questa torre che spicca, e permettetemi, voi sapete che mi piace sempre introdurre quella che è maestra di vita, oltre alla storia, o forse prima della storia, la natura. La natura è meravigliosa. La natura, che è nostra madre, e qui impreziosisce e ingentilisce questi profili, queste linee, che ripeto, è giusto che siano severe, perché il castello nell'antichità doveva incutere timori, doveva proteggere, doveva mantenere lontano gli assedianti. Simbolo dell'autorità e del possesso. Dell'autorità. Proprio così, Antonio. Doveva essere immediata l'associazione al potere come una sorta di monolite, cioè intatto, inscalfibile. E così è con il castello di Collalto, però la natura qui lo ingentilisce, lo rende quasi più dolce. Meno severo. Meno severo. In primavera vi esorterei a concedervi un fine settimana, perché ci sono degli splendidi iris che sbocciano a fine aprile, queste macchie di colore, poi questo prato che circonda il contado proprio, per cui alla base, ai piedi della torre, che si ricama di pratoline, di margheritine selvatiche, e anche le mura rimaste, ci sono questi ciuffetti di fiori che lo rendono al pari proprio di un quadro, di qualcosa di così ameno, e si dimentica un po' anche il fragore delle lame, delle spade di un... Ma deve essere bello anche adesso, però lo... sì, sì, in autunno adesso, sì, in autunno per i colori è il fascino massimo, legato, come vi dicevo, ai castagni, agli alberi di noci, per cui sì, si colora di colori, di tonalità molto calde, diventa una sorta di abbraccio, perché per aiutarvi a visualizzare, voi giungete, c'è questa strada che vi porta proprio alla base della torre, c'è questa cinta muraria, avete la classica porta che era munita di feritoi un tempo, e sulla quale si apre questi appezzamenti erbosi, questo per l'appunto contado, e poi all'interno la chiesa dedicata a San Giorgio, e l'altra porta con delle inferriate, sempre un portale che è posta per introdurvi alla torre difensiva, per cui queste sono le vestigia che vi accolgono, che quando giungete, dal punto di vista architettonico rimaste, quando giungete in questa località così amena. Dalla torre loro vedevano il nemico che avanzava. Loro dalla torre, Gesuina, ottima la tua osservazione, perché potevano vedere sia la zona, le prealpi bellunesi, sia, per cui andiamo molto a nord, sia chiaramente chi arrivava dalla piana, dalle campagne pianeggianti del Piave. Certo. E ti dirò di più, la linea dell'orizzonte è lontanissima, è magnifica, cioè tu spazi in questa visione panoramica. Quasi, anzi direi non quasi, è pensata la torre per spaziare a 360 gradi. Bene Elena, ci fermiamo ancora un momento per un'altra canzone. Ma certo. Che è intitolata Venezia t'amo, che è cantata da Milva. Oi! Oi! Previsa, oi! Lope, addormentarmi ancora fra le tue braccia, amore, udirti sospirare, parole sussurrare, mentre la gondola va e scende l'oscurità, sentirsi avvolti nel mistero di questa magica città. Morire d'amore, morire di gelosia, lasciarci più. Venezia, t'amo, mai ricordato il primo amore. Venezia, t'amo, la più bella poesia d'amore sei tu. Incantesimo d'oro, il mio segreto l'ho confidato alla laguna, sotto la luna, ricordando quel tempo lontano che fu la mia felicità. Amo in questa dolce serenata improvvisata, ricordando quel tempo lontano che fu la mia felicità. Eccoci qua, Elena. Eccoci qua, Elena. Stiamo parlando per l'appunto di queste meraviglie architettoniche che ci accolgono nel paesino di Collalto. Perché paesino? Perché stiamo parlando di una località, diciamo che ha sui 400-500 abitanti, ma il paesino inteso perché pur nella sua vocazione imperiale di culla di un casato che poi è noto internazionalmente, Collalto è anche intrecciata alle tradizioni, per cui a quelli che sono gli elementi e gli ingredienti essenziali della vita rurale, per cui in ogni casa non dimentichiamo che è presente il larin, questa bocca a fuoco grande del caminetto, esattamente, su cui si cucinavano e si cucinano ancora le lugane, le salsicce, oppure anche, ne abbiamo parlato quando ci siamo visti la prima volta, lo speo, cioè lo spiedo, esattamente, carni di maiale, ma anche la selvaggina, la cacciagione. Questo per dirvi che Collalto non ha un'anima spezzata, ma riesce anzi a congiungere, ad unire i quarti di nobiltà con quella che è, per l'appunto, parafrasando il titolo di questa magnifica trasmissione, le storie dei noantri che incontrano le storie di quelli che si diceva un tempo i fiori, i signorotti, i vassalli, la nobiltà. Nobili di un la nobiltà, esattamente, Antonio. Per cui Collalto è estremamente legata anche agli usi, costumi, alla operosità e alla frugalità delle nostre genti. Però certo non possiamo prescindere, ritornando ai Collalto, a questa stirpe che ha pregna in senso di volontà solida, pregna volontà di estendersi, però va detto sempre rispettosa dei territori che in qualche modo ne hanno salutato e visto le gesta. Per cui anche questo, se vogliamo, un ulteriore segno di dialogo, di incontro, che nella storia va sempre sottolineato. Quasi un'eccezione, diciamo, nei confronti. Quasi un'eccezione, sì. Antonio. Sì, infatti sì. I Collalto si fregiano di questo, l'aver fatto quasi da ponte per certi aspetti e non aver inoculato con violenza quelli che erano prevaricato gli altri, prevaricato, esattamente. Tornando al centro, appunto, di Collalto, diventa per cui il nodo, il fulcro del casato di Collalto, che però pensano bene di lì a qualche secolo, intorno alla metà del 1002, di espandersi acquistando una collina amena, molto bella, vicina, che dista, come dicevo, sui 6 chilometri, intorno ai 6 chilometri, la collina di San Salvatore, e lì faranno edificare l'altro importante castello dove oggi risiede la famiglia, il castello di San Salvatore, che è visibile dalla Pontebbana, dal tratto di Pontebbana che ci accompagna per l'appunto da Ponte della Priula verso Conegliano, e domina proprio quelli che sono, quella che è non più il Piave ma la pianura dell'entroterra, per così dire, ed è l'altro centro di potere feudale dei Collalto, a cui si unì poi anche, purtroppo non ne abbiamo più alcun visibile testimonianza, sì, ahimè è andato tutto perduto, del castello di Credazzo a Rai di San Polo, ma ahimè documenti ve ne sono, ma sul fronte materiale, fisico, a noi non è giunto nulla. Però per amor di verità, i centri erano tre: il castello di Collalto, il centro principale, poi è arrivato il castello di San Salvatore, e poi intorno al 1003 il castello di Credazzo verso la località di Rai di San Polo. La cosa che balza all'occhio, Gesuine Antonio carissimi, è come in fondo si riuscisse a raggiungere una vastità di terre dominandole con dei centri che diventavano punti di riferimento anche per le campagne, le cosiddette ville di allora, come si definivano. E tra il castello di Collalto e il castello di San Salvatore ci fu subito una differenza di, per così dire, giurisdizione sulle ville, perché il castello di San Salvatore dominò per l'appunto Santa Lucia, Susegana, Refrontolo, la parte conegliane, per contestualizzarla nell'oggi. Sì. Invece il castello di Collalto guardò più quasi alla valle del Soligo, per cui Falzè, Piede di Soligo, Cernaglia, tutte che le paese, altre località. Questo per sottolineare l'evoluzione anche su un piano amministrativo. I Collalto sono eccezionali, si doteranno di loro statuti, saranno riconosciuti dall'imperatore Arrigo VII, infatti a tutti gli effetti diventeranno, dopo essere stati riconosciuti come signori feudali, saranno uniti al Sacro Romano Impero come conti di Collalto e di Susegana, e correndo, perché la storia ci fa anche correre, arriviamo poi all'impero asburgico e diventeranno i primogeniti, saranno riconosciuti come principi dell'impero asburgico, per cui a tutti gli effetti ci sarà, per così dire, un ancor di più potenziare quella che era la loro nascita alemanna, perché uniranno Longobardi, la diramazione dei Franchi, per cui, come abbiamo detto, un patrimonio culturale sconfinato, e poi via via, convivendo anche con la Repubblica della Serenissima, arriveranno anche al titolo nobiliare di principi dell'impero asburgico. Vi basti appunto questo per sapere quali immensità culturali e quali eredità ci vengono lasciate da questa famiglia, che aveva amicizie con i Visconti, con i Correggio, con gli Este, per cui sedeva a tavola un po' con tutti i signori del, passatemi il termine, del Regno Italico, anche se in realtà dovremmo attendere il 1861 per parlare di Regno Italico. Però è affascinante ripercorrere questo tratto di storia. Sì, è assolutamente affascinante, Gesuina, perché, come si diceva poc'anzi, è quasi un'eccezione incontrare un casato feudale che però perde, diciamo, quella parte di di categorico, di impositivo, di coercitivo, per quasi fondersi e incontrare anche le altre culture. Lungimiranza amministrativa, quindi. Esattamente, un casato lungimirante, verrebbe quasi da dire, passatemi il termine, visto la nostra attualità, un esempio straordinario di multiculturalità. Esatto, perché è proprio così. È la cultura alemanna che si fonda con la nostra che si fonde con la nostra ruralità, perché poi con l'alto seppero bonificare e trassero dalle nostre terre, con l'aiuto dei villani, che furono determinanti anche nel progredire su un piano di prodotti proprio del casato, ci donarono dei vigneti e delle uve stupende, di cui poi, se avrò modo, vi parlerò. Però mi piace sottolineare Questa parte di multiculturalità, di incontro dei saperi. Questo è molto bello, perché queste multiculture, insomma, è uno dei tratti determinanti, certo. Io credo, al di là di tutte quante le altre caratteristiche, questo è proprio intelligenza, come dire, proprio straordinaria, io ho l'impressione. Esattamente, straordinaria. Proprio Antonio ha, secondo me, utilizzato il termine più adeguato, perché al di là delle ordinarie diatribe, scontri, poi, per carità, è chiaro, anche con l'alto avevano, con termini, possedimenti dei caminesi, altro casato che però derivò un po' dai Collalto, perché si dice che i caminesi arrivassero da Bianchino I, che era un erede, un discendente di quel Rambaldo I che arrivò sul colle di Collalto. Per cui i caminesi sono in fondo una costola, poi si espanderanno, arriveranno ad essere signori di Ceneda, e siamo già nel Vittoriese, sì. Però notiamo subito come Collalto furono grembo, e nonostante gli scontri ci fossero, perché lo sappiamo che il Medioevo fu così, loro furono illuminati nell'incontro verso le altre culture. Ecco questa è la bella, bella straordinaria. Sì, straordinaria, Gesuina, straordinaria. E poi Collalto, dire Collalto significa oggi dire vigneti ed uve di peso veramente internazionale, mondiale, perché basti pensare che nella cantina che è retta ancora oggi dall'erede del casato, che è la primogenita Isabella di Collalto, escono ogni anno 850.000 bottiglie di prosecco, di cui 550.000 di prosecco. Per cui è una delle cantine più prestigiose, tra l'altro edificata su disegno dell'architetto, perdonatemi, Carpenè Malvolti, che è un altro cognome di grande prestigio, chiaramente, che ha fatto la storia dell'enologia nostrana, giustamente. Esattamente, che ha proprio fatto, che ha scandito la nostra storia vinicola, per cui una cantina che risale a fine 800 e poi è stata, come vi dicevo, restaurata, allargata nei primi del 900, e da un cavò di bottiglie preziosissime, si parla di 2000 bottiglie, e tra le quali spicca, e qui merita un discorso a parte, un vino portato dall'abate Vinciguerra, altro erede Collalto, dai suoi viaggi, era un viaggiatore, un erudito, e l'etichetta al vino è il Wildbacher, ve lo dico proprio in austriaco. Wildbacher. Allora, ci fermiamo ancora un momento, Elena, certo. E ci ascoltiamo un'altra canzone, questa volta è una canzone molto moderna, ed è intitolata La gelosia, e canta Bianca Azzei. No! Dolore che passerà. No, non voglio illuminare. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Elena. Grazie, grazie Antonio, grazie Gesuina. Abbiamo l'ultima tranche. Benissimo, benissimo. Allora, sulla scia di queste di questo vino pregiato, il Wildbacher, mi viene il nome stesso, evoca un po' leggende, un vino profumatissimo di bacche rosse, mi viene in mente qualcosa di estremamente intrigante, misterioso, segreto, legato ai Collalto, la leggenda di Bianca. La leggenda di Bianca che è tutt'uno con il castello proprio. Siamo nella metà del 400, l'ambientazione è per l'appunto il castello di Collalto. Bianca è una fanciulla orfana ed è stata posta da Tolberto, che è allora il conte reggente, a capo della servitù della propria consorte, Aica Chiara da Camino, come vi dicevo. Non si deve che parlare del castello. Poco sì. Fa, questo matrimonio aveva suggellato proprio la pace tra le due famiglie. Bianca, questa orfanella molto mite, molto devota, viene posta da Tolberto proprio alle dipendenze, si prendeva per così dire cura della contessa Aica. Tolberto è costretto per gli impegni bellici a lasciare il castello e prima di lasciare il castello ed annunziare la sua partenza per la guerra si reca nella stanza della contessa. Bianca la sta pettinando e la leggenda narra che salutò, abbracciò, baciò la contessa, ma si dice che nell'andare poi verso la soglia lanciasse un'occhiata a Bianca che, come se lo vide poi rivolgere le spalle e andarsene, e sgorgasse dai suoi occhi alcune lacrime. Chiara da Camino, la contessa, ingelosita da questo fatto, fece perseguitare, perché voleva a tutti i costi che Bianca denunciasse una sorta di tradimento di Tresca che in realtà non c'era. Sì. E alla fine, quasi come una sorta di Otello in versione femminile, la fece murare nella sua stanza, murare viva dopo varie. E sì, da allora Tolberto poi tornò dalla spedizione, si arrabbiò moltissimo e alcuni dissero che si tramandò anche l'idea che la stessa contessa fece una bella fine, ma ciò che a noi preme è che da allora, da quella metà del 1004, si dice che all'interno della torre vaghi questo spirito dalle sembianze di fanciulla che, se porta una veste bianca, annunzia ai componenti della famiglia Collalto degli eventi fastosi e, diciamo, fausti, cioè sì, gioiosi, sì, lieti. Se invece arriva coperta di veli neri, ahimè, solo sventure. E questo spirito, questa leggenda è molto radicata anche nelle genti proprio del Suseganese, perché alcuni dicono di sentire sul far dell'autunno, in certe notti di luna piena, i suoi lamenti, i gemiti di questa fanciulla che quasi chiede una sorta di ascolto, di aiuto, ed è questa la leggenda di Bianca, che tra l'altro si intreccia un po' con una tradizione irlandese. Qui entriamo proprio nelle atmosfere, nelle suggestioni del mese di novembre, dei cosiddetti Banshee, cioè letteralmente dal gaelico le donne fate, che erano spiriti di famiglie nobiliari che, appunto, non voglio dire infestassero, ma cadenzavano un po' con il loro passaggio le notti di queste famiglie, sempre però quali vittime di fatti alquanto spiacevoli, ingiusti, sì, e non rispettosi della loro verità. E se vogliamo, questa leggenda di Bianca porge anche, mi dà modo di toccare un'altra figura femminile, in questo caso però realmente esistita, sì, in carne e ossa, che è Gaspara Stampa, la grande poetessa, e rivendico l'aggettivo grande perché è una delle voci più autentiche della nostra poesia amorosa del Cinquecento. Gaspara Stampa fu per certi versi una poetessa sublime, però un'innamorata infelice, perché il suo cuore fu donato con totale trasporto a Collaltino di Collalto, ma non ricambiato. Sì. E qui ritorniamo in quel tema universale che tanto ha, per così dire, afflitto, perché i casati nobiliari sono lastricati di queste vicende di eredi che sono state, ahimè, promesse ad altri, ma poi vi erano altri cuori meno nobili, ma forse più nobili nel sentimento, che trepidavano e che scrissero i loro tormenti. Gaspara lo fece con delle rime stupende, sì, che riecheggiavano il canzoniere petrarchesco, e in qualche modo Gaspara purtroppo fu vittima di questo amore mai in realtà corrisposto. Però vogliamo pensare che riuscì a sublimare questa mancanza d'affetto nella parola, in versi molto melodiosi e anche passionali, perché Gaspara era una donna padovana, poi si stabilì a Venezia, ma estremamente, come dire, spregiudicata, libera nel suo per essere, i tempi, sì, i tempi di allora, sì, sì, certo, per i tempi, nel suo essere, consentitemi, la libertà maggiore era nella sua verità biografica, nella sua autenticità, che non temeva, per così dire, nessun tipo di compromesso, di mediazione imposta. Ella cantò proprio ciò che sentiva. Peccato che sia morta giovane. Sì, sì, è morta giovane, sì, sì, è morta giovane a poco più di 30 anni, però la sua voce, per chi vorrà, e si trova in tutte le biblioteche, la bellissima raccolta di 311 sonetti, madrigali e componimenti vari, le rime per l'appunto sono di una limpidezza, esorto veramente a riprenderle, a leggere e a lasciarsi cullare in questi sentimenti così densi e così veri, così proprio autenticamente provati e sentiti. E mi piace pensare che in quel meraviglioso castello, accanto alla chiesa di San Giorgio, si elevino proprio verso il cielo i gemiti di Bianca, che possano trovare poi diventare quasi canzone attraverso le rime di Gaspare. Bello questo accostamento, molto bella. Sì, grazie, mi piace, Elena, veramente. Mi piace questa immagine. Sì, è bella, bellissima. Certo. Comunque abbiamo ripercorso così a grandi linee, perché il tempo è quello che è, però è stata veramente affascinante. Un appunto vorrei fare, sul giornale di oggi proprio si parlava di Medioevo. Si parla impropriamente di secoli bui, di secoli, come dire, un periodo oscurantista e compagnia. Da questi e altri fatti capiamo che non è assolutamente vero, sono dei pregiudizi postumi, o sbaglio? Guarda, Antonio, tu dici dici una sorta di verità, consentitemi, evangelica, nel senso che va assolutamente fatto luce su questo pregiudizio, perché il Medioevo ci regalò Cassiodoro, Boezio, ci regalò la migliore poesia, Abelardo ed Eloisa, per cui tutt'altro, anzi forse la cultura toccò un apice. Anche secondo me. Tutto ciò che è gotico, nel senso il fantasy, che oggi va per la maggiore, eccolo là, giusto, affonda le radici nel Medioevo, un'età di mezzo su un piano di collocazione storica, ma di pienezza e di assoluta luminosità. Permettetemi di chiudere, e cade a fagiolo, con il motto dei Collalto, che è un motto in latino: post tenebras lux. Dopo la tenebra la luce, è bello. Era una famiglia veramente straordinaria. Qui è proprio una commistione straordinaria di un'incrocevia di culture fatta famiglia proprio, ecco. Proprio così, esattamente, un crogiuolo di voci e di culture che si sono unite e nel segno dell'evoluzione e del dialogo regalano a noi veramente occasione di crescita e di arricchimento. Quindi ci è rimasta l'ultima superstite dei Collalto. Sì. Allora, dopo la scomparsa nel 2004 del principe conte Manfredo, ci sono le quattro figlie e la maggiore, Isabella de Croix Collalto, regge la cantina, e il suo primogenito Emmanuel è il sesto principe di Collalto, Collalto, sì. Bene, dobbiamo lasciarti perché il tempo è scaduto. Già. Ecco, comunque è stata veramente un percorso affascinante, bellissimo. Decisamente. E noi ti ringraziamo veramente di cuore, e penso che lo faranno anche i nostri ascoltatori, perché ne vale la pena. Grazie, abbraccio a voi, e caloroso tanto a tutti i radioascoltatori, e alla prossima, sempre in cammino. Senz'altro. Alla prossima occasione. Grazie mille. Grazie, ciao, Elena, ciao, di nuovo. Grazie, carissima. Grazie a voi. Grazie, ciao, ciao. Allora, Antonio. Niente, qui siamo giunti anche oggi, diciamo che queste serate così ti proprio, e poi in autunno in particolare, ti portano a reminiscenze così familiari, storiche, una cosa straordinaria. Peccato che non abbiamo un po' di caldarrosti. Niente, le facciamo virtuali e non ci rimane altro che ringraziare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori per la pazienza con la quale ci seguono. E come sempre io vi saluto affettuosamente col mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.